La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Il bucaneve. Una fiaba di Christian Andersen. Era inverno. L'aria era fredda, il vento tagliente, ma in casa si stava bene e faceva caldo, e il fiore stava in casa, nel suo bulbo, sotto la terra e sotto la neve. Un giorno cadde la pioggia. Le gocce penetrarono oltre la coltre di neve fino alla terra, toccarono il bulbo del fiore, gli annunciarono il mondo luminoso di sopra. Presto il raggio di sole, sottile e penetrante, passò attraverso la neve fino al bulbo e bussò. «Avanti!» disse il fiore. «Non posso!» rispose il raggio. «Non sono abbastanza forte per aprire. Diventerò più forte in estate.» «Quando verrà l'estate?» chiese il fiore, e lo chiese di nuovo ogni volta che un raggio di sole arrivava laggiù. Ma c'era ancora tanto tempo prima dell'estate. La neve era ancora lì e ogni notte l'acqua gelava. «Quanto dura! Quanto dura!» disse il fiore. «Io mi sento solleticare. Devo stendermi, allungarmi, aprirmi. Devo uscire. Voglio dire buongiorno all'estate. Sarà un tempo meraviglioso.» Il fiore si allungò e si stirò contro la scorza sottile che l'acqua aveva ammorbidito. La neve e la terra avevano riscaldato, il raggio di sole aveva punzecchiato, e così sotto la neve spuntò una gemma verde chiaro, su uno stelo verde con foglioline grosse che sembravano volerla proteggere. La neve era fredda ma tutta illuminata. Era così facile attraversarla, e sopraggiunse un raggio di sole che aveva più forza di prima. «Benvenuto, benvenuto!» cantavano e risuonavano tutti i raggi, e il fiore si sollevò oltre la neve del mondo luminoso. I raggi lo accarezzarono e lo baciarono, e così si aprì tutto bianco come la neve, e adorno di striscioline verdi piegava il capo per la gioia e l'umiltà. «Bel fiore!» cantavano i raggi. «Ma come sei fresco e puro! Tu sei il primo, l'unico, sei il nostro amore! Tu annunci l'estate, la bella estate, in campagna e nelle città. Tutta la neve si scioglierà, i freddi venti se ne andranno, e noi domineremo. Tutto rinverdirà e tu avrai compagnia. Ma tu sei il primo, così delicato e puro.» Era proprio divertente. Era come se l'aria cantasse e risuonasse, come se i raggi di sole penetrassero nei suoi petali, nel suo stelo. Lui era lì, così sottile e delicato e facile a spezzarsi, eppure così forte nella sua giovanile bellezza. Era lì, in mantello bianco e nastri verdi, e lodava l'estate. Ma c'era ancora tempo prima dell'estate. Nuvole nascosero il sole e venti taglienti soffiarono sul fiorellino. «Sei arrivato troppo presto», dissero il vento e l'aria. «Noi abbiamo ancora il potere. Dovrai adattarti. Saresti dovuto rimanere chiuso in casa. Non dovevi correre fuori per farti ammirare. Non è ancora tempo, sai.» C'era un freddo pungente. I giorni che vennero non portarono un solo raggio di sole. C'era un tale freddo che ci si poteva spezzare, soprattutto un fiorellino, così delicato. Ma in lui c'era molta più forza di quanto lui stesso sospettasse. Era la forza della gioia e della fede per l'estate che doveva giungere, che gli era stata annunciata da una profonda nostalgia e confermata dalla calda luce del sole. Quindi resistette con la sua speranza nel suo abito bianco sulla bianca neve, piegando il capo quando i fiocchi cadevano pesanti e fitti, quando i venti gelati soffiavano su di lui. «Ti spezzerai», gli dicevano, «appassirai, gelerai, perché hai voluto uscire, perché non sei rimasto chiuso in casa, il raggio di sole ti ha ingannato e adesso ti sta bene, fiorellino, che hai voluto bucare la neve». «Buca neve!» ripeté quello nel freddo mattino. «Buca neve!» gridarono alcuni bambini che erano giunti nel giardino. «Ce n'è uno così grazioso, così carino, e il primo, l'unico!» Quelle belle parole fecero bene al fiore. Erano come caldi raggi di sole. Il fiore, preso dalla sua gioia, non si accorse neppure d'essere stato colto. Si trovò nella mano di un bambino, venne baciato dalle labbra di un bambino e poi fu portato in una stanza riscaldata, osservato da occhi affettuosi e messo nell'acqua. Ah, era così rinfrescante, così ristoratrice, e il fiore credette improvvisamente d'essere entrato nell'estate. La fanciulla della casa, una ragazza graziosa, che era già stata cresimata, aveva un caro amico che pure era stato cresimato e che ora studiava per trovarsi una sistemazione. «Sarà lui, il mio fiorellino beffato dall'estate!» esclamò la fanciulla. Prese quel fiore sottile e lo mise in un foglio di carta profumato, su cui erano scritti dei versi, versi su un fiore, che cominciavano con «Fiorellino beffato dall'estate!» «Caro amico, beffato dall'estate!» Tutto questo fu scritto in versi, e spedito come una lettera. Il fiore era là dentro, e c'era proprio buio, ma troppo buio forse, buio come quando era nel bulbo, e il fiore viaggiò. Si trovò nel sacco della posta, venne schiacciato, premuto, non era affatto piacevole, ma finì. Il viaggio terminò, la lettera fu aperta e letta dal caro amico. Lui era molto contento, baciò il fiore, che fu messo insieme ai versi in un cassetto, insieme a tante altre belle lettere, che però non avevano un fiore. Lui era il primo, l'unico, proprio come i raggi del sole lo avevano chiamato. Com'era bello pensarlo! Ebbe la possibilità di pensarlo a lungo, e pensò, mentre l'estate finiva, e poi finiva in lungo inverno, e venne l'estate di nuovo e fu allora tirato fuori, ma il giovane non era affatto felice, no. Afferrò i fogli con violenza e gettò via i versi, e il fiore cadde sul pavimento, piatto e appassito. Non per questo doveva essere gettato sul pavimento, comunque meglio lì che nel fuoco, no? Dove tutti i versi e le lettere finirono. Che cos'era successo? Beh, insomma, quello che succede spesso. Il fiore lo aveva beffato, ma quello era uno scherzo. La fanciulla lo aveva beffato, e quello non era uno scherzo. Lei si era trovato un altro amico, nel mezzo dell'estate. Le cose vanno così. Al mattino il sole brillò su quel piccolo bucaneve schiacciato che sembrava dipinto sul pavimento. La ragazza che faceva le pulizie lo raccolse e lo mise in uno dei libri appoggiati sul tavolo, perché credeva ne fosse caduto mentre lei faceva le pulizie e metteva in ordine. Il fiore si trovò di nuovo tra versi stampati, e questi sono più distinti di quelli scritti a mano, perlomeno costano di più. E così passarono gli anni, e il libro rimase nello scaffale. Poi venne preso, aperto e letto, e era un bel libro. Erano versi e canti di un grande poeta, che valeva certo la pena conoscere. L'uomo che leggeva quel libro girò la pagina. «Oh, c'è un fiore qua!» esclamò. «Un bucaneve! È stato messo qui certamente, con un preciso significato! Oh, oh, oh, oh, povero poeta! Anche lui era un fiore beffato, una vittima della poesia. Era giunto troppo in anticipo sul suo tempo, per questo subì tempeste e venti pungenti, passò da un signore all'altro come un fiore in un vaso d'acqua, come un fiore in una lettera di versi. Fiorellino beffato dall'estate, zimbello dell'inverno, vittima di scherzi e di giochi. Ora sei un segnalibro, piccolo bucaneve. Certo non sei stato messo qui a caso». E così il bucaneve fu rimesso nel libro, e si sentì onorato e felice, sapendo di essere il segnalibro di quel meraviglioso libro di canti e poesie e apprendendo che chi per primo avesse cantato e scritto di lui era pure stato un bucaneve, beffato dall'estate e vittima dell'inverno. Il fiore capì naturalmente tutto a modo suo, proprio come anche noi capiamo le cose a modo nostro. E questa è la fiaba del bucaneve. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net